Non prendo decisioni, la mente va da sé. Sulle dita conti neuroni, mi sento come un re. Non voglio noie, perché ho le occhiaie. Mi sento come a Palm Beach, ma non ci sono le palme. Quando sono in fame chimica mi mangio le parole. Niam. Sarà perché quando sono in fame chimica mi mangio le parole. Niam. Sarà perché. Always smoking with my homies. Always smoking with my homies. Always, always smoking, smoking with my homies, homies. Always, always smoking, smoking with my homies, homies. Always, always smoking with my homies. Razza razza a parte, ne ha pieni polmoni. With my homies, e se già chi siamo? With my homies, e volo più lontano. La spiaggia è bollente, ne giro un altro paio. Il sole picchia in testa, mi plaso sulla sdraio. Mi faccio un altro viaggio, al sole poi mi braso. Poi esce fumo dal naso, inizio a dire cose a caso. Ne fumo una, due, tre, quattro, cinque, sto. Fumo la sesta, la settima e sono K.O. L'ottava viene da sé, la nonna la fai te. Ne faccio un'altra e poi mi sento come le Seychelles. Parlo come Pingu, non farmi domande. Razza a parte, baby, we come from Marte. Always smoking with my homies. Always, always, always, always, always, always, always, always. La situazione critica, se tiro su fame chimica, cervello in pappa e occhi da cartoon. Tu mi trovi coi miei omi anche se il morale è giù. Poi ritorno in questo mondo, mangio in fissa alla TV. Sbalzi di caldo e freddo, cine cartine, poi mi sdraio sulla spiaggia al sole come alle Maldive. Ste due fighe, fighe, troppo fighe stanno sotto. Mi sveglio tutto sudato, mi sa che ho fumato troppo. Ne faccio un'altra ancora, aspiro, sativa. La sensazione è forte, poi salgo su in cima. La testa adesso altrove, mi sento ad Ibiza. La passo a miei homies, poi rompo un'altra stizza. Sempre preso bene, smoking with my homies. Situazione complicata, semi, semi, chiedi nomi. Non ti posso fare nomi, me ne passa un'altra un homie. Always smoking with my homies. Always smoking with my homies. Always smoking with my homies. Always, always smoking, smoking with my homies, homies. Always, always smoking, smoking with my homies, homies. Ma che cazzo?